Ciao a tutti, sono Sonde Schilani, un ex minore di Campodifiori. Stavo nella casa famiglia Bella Ambriana. Oggi ho 22 anni, sono una ragazza straniera, sono tunisina. Sto in Italia dal 2017, nel mese di aprile sono arrivata. Nel mese di giugno sono entrata a far parte della comunità Campodifiori. Sono entrata che non conoscevo la lingua. Avevo una religione diversa, avevo pensieri diversi, non comprendevo le persone, un po' difettata, diciamo. Grazie ai ragazzi, grazie al supporto dei operatori, responsabili, ho imparato la lingua in poco e niente. Infatti, oggigiorno, quando parlo, nel mio lavoro, quando parlo con le persone che incontro e quando ho a che fare anche con persone straniere come me, non se ne accorgono proprio della mia pronuncia, dicono che sono italiana, anzi napoletana. Questo qua, cioè, tutto ciò è dovuto ringraziando questa casa famiglia, mi ha dato tante possibilità di conoscere altre persone, di modificare il mio carattere e diciamo che per me una delle parti più importanti e socializzare con le persone che mi era difficile accettare le persone, stare a sentire le cose che per me erano un bene. Grazie anche ai direttori di Campodifiori, che sarebbe Giacomo Di Sena e Massimo Allocca. La parte più importante per me è Robinson, i 2 mesi che ci portano a fare la nuova vita, quella che aspettiamo in tutto l'anno. Un paio di mesi bellissimi dove litighi, dove fai amicizia, dove impari l'autonomia, dove o ti stai, però là per là dici: oh, non ce la faccio, non è cosa per me, non me ne voglio andare. Poi dopo 2 o 3 giorni in quel campo è come se diventasse la tua parte preferita. Oggigiorno vado in posti bellissimi, ho visitato parecchi posti, sono andata in alcuni ristoranti bellissimi, sono andata in alcuni posti proprio, non so come spiegare, ma a me mi manca la risata e il falò di quel campo. Cioè, alla fine non era niente di lusso, eravamo, cioè, dei ragazzi con delle pantofole al piede, con dei costumi, copri costume, chi è vestito, chi è truccato. Ognuno di un genere, ognuno di un paese, attorno a quel falò a raccontare la nostra storia a persone che ci comprendevano, ci davano una mano. Il campo per me è molto importante, lo dico, lo ripeto, secondo me non troverò più un posto, del genere. Ho girato e girerò ancora e ogni tanto metto qualche pezzo di quel campo nella mia vita. Del giorno oggi, qualche canzone, qualche esempio che mi è stato fatto da chi era più grande di me lì dentro, dall'esperienza che ho fatto con dei bambini di Itaca, mi è rimasta proprio impresso. Cioè, secondo me un'esperienza come quella, ho fatto del volontariato insieme a altre operatrici per i bambini e posso dire che quell'esperienza per me è rimasta, cioè, sulla mia pelle, cioè non si toglierà mai più, è un orgoglio per me, cioè la racconto fino al giorno d'oggi ai clienti miei, ai miei amici, faccio vedere delle foto, perché la gente ha pure, diciamo, un certo pensiero sulle case famiglie negativo. Ovviamente io cerco sempre di dare l'esempio buono, perché io ho vissuto bene, ho vissuto molto bene. Perché io a rapporti con l'operatore, con la responsabile, ho sempre avuto rapporti di sorelle, un fratello più grande, uno zio, Giacomo Di Sena come un padre, Massimo Allocca come il fratello più grande dove ti puoi appoggiare a dire le tue cose, lui ti trova subito la soluzione. Devo dire, la cosa più importante è stata modificare il mio carattere. Mi diceva sempre Giacomo, mi diceva: guarda, che se continui così nella vita tua personale ti troverai male, non devi fare così con noi, non è che lo puoi fare, però fallo con noi così impari man mano come si modifica, si diventa migliori e bene o male a volte mi vengono quei crisi da, come si dice, da master, in napoletano, e poi ci ragiono sopra e dico, ah, però a me mi hanno sempre insegnato in quella casa, perché è casa quella, non è una casa famiglia, è casa proprio, te la senti tua, che ogni tanto ci bisogna ragionarci 10 volte sopra, se non 100. Al giorno d'oggi io campo, vado avanti con l'esperienza di Campo dei Fiori, e se il giorno d'oggi sono così, è grazie a loro, se vado avanti e vado ad ingrandire da giorno in giorno, è sempre grazie a loro. La scuola, la compagnia non ti fanno sentire soli, perché ovviamente la maggior parte di noi nella casa famiglia, chi è il padre non c'è, chi è il padre l'ha abbandonato, chi la madre è un po' così, chi i parenti ce l'hanno in un altro paese come me, quindi loro non ti fanno sentire estraneo. Io ho avuto delle persone proprio accanto a me, proprio molto speciali, che non mi dimenticherò mai e poi mai di loro. Quelli più importanti nella mia vita sono stati Giacomo Di Sena, Massimo Allocca, Eleonora Di Palma, Annalisa Annunziata, Enzo Liberti e Federica Galati e Antonio Ferrara e anche altri. Però sono stati molto importanti queste persone per me, molto molto importante. I ragazzi fino al giorno d'oggi li chiamo, li saluto, come stai? Tutto bene? Li vado a trovare, mi vengono a trovare. Amicizia da anni, come con Claudio Pannella, come con Danilo, con Gianluca, con tante persone, con Jennifer. Veramente, veramente. Alcune persone ero con loro come il cane e il gatto. Ma poi, ecco, al giorno d'oggi siamo cresciuti e ci sentiamo, ci fa piacere sentirci a vicenda, proprio ci fa molto piacere. E niente, è una casa famiglia spettacolare, non è casa fa cioè, famiglia, perché poi ti fanno entrare anche a casa loro, nelle feste, non abbiamo mai sentito la mancanza delle feste della famiglia, perché ti portano da loro, a casa loro, ti fanno vedere casa loro, ti fanno sedere e parlare con la loro famiglia come se tu fossi già uno di loro, come se tu già appartenessi a quella casa. Anche nelle giornate ti portano con loro, non fanno lavoro e basta, no. Anzi, secondo me, quando entrano si dimenticano il lavoro. E questa qua, una operatrice di questi che faceva questa cosa proprio, è Maria. Maria, quella che lavora a Bella Ambriana, Maria D'Onofrio, sì. Lei era proprio, cioè, non lo so, per lei era casa sua, cioè casa sua era un lavoro e la casa famiglia era casa sua. Quindi tanti operatori se non li ho nominati perché ecco, non mi viene ora, però un sacco di loro mi hanno aiutato e io sarò grata per sempre. Questo è un messaggio per chi entrerà nuovo in Campo dei Fiori. Entrerai, cioè, entri e piangi, e esci e piangi, perché si piange 2 volte a Campo dei Fiori, quando entri e quando te ne vai. È quello che è successo a me. Mi ricordo nel 2017, a giugno, per le scale piangevo di entrare in casa famiglia. Ho pianto troppo e ho pianto peggio quando me ne sono andata, perché come abbandonare un pezzo del proprio corpo, ok? Pensando che sarei stata abbandonata, che sarei andata a finire male, ma ho trovato sempre l'appoggio, lo stesso anche quando sono uscita da lì. Fino al giorno d'oggi sento tutti, mi fa piacere avere a che fare con tutti e la mia famiglia. Mi raccomando, per chi entra a Campo di Fiori, che mettesse il cuore. E non faccia il furbetto come io volevo fare, ma alla fine l'amore che ricevi lì dentro ti fa togliere la furbizia e anche la cattiveria, perché alcuni di noi la cattiveria ce l'ha proprio un po' addosso, perché ecco, l'abbandono della famiglia, stare da soli è molto brutto, quindi entri arraggiata, diciamo, dentro la casa famiglia, però loro ti fanno togliere il tutto. Ovviamente ci sono anche le giornate no, con cui litighi anche con l'operatore, anche con il proprietario, ma poi torna tutto come prima, proprio come una famiglia fatta bene. E quindi a me mi hanno fatto vivere tante esperienze, anche l'esperienza di fare l'interprete per loro, perché ci sono stati anche altri ragazzi come me che all'inizio non sapevano parlare, li ho aiutati io, mi hanno retribuita. Comunque veramente ti fai una bella carriera e passi del bel tempo che dopo ti rimangono proprio, e te li porti nella vita e a volte li usi per andare avanti nella vita, o per fare una risata con gli amici, o per far sentire qualche canzone che sentivi in quel bellissimo falò. Non mi dimenticherò mai i tramonti che abbiamo passato ad Agropoli, le ballate, la chiena d'acqua che ci portavano anche con due macchine, tante cose che rimangono proprio, che non li posso spiegare di sicuro in un audio, però io so e loro sanno quanto io ci tenga per loro, proprio tantissimo. Saluto tutti i minori, tutti i miei amici, li voglio tanto bene e mi mancano, e a breve li vado a trovare.